meglio stare attenti, rimane bloccato a casa, no? Dai, mica hanno 90 anni, no? Già sei ancora indipendente. E lo so, adesso devo parlare con la dottoressa. L'hanno detto in televisione pure questo difetto qua. Come disostruiscono l'arteria, torna normale la gamba. Non sto uscendo perché non so neanche dove andare, tra l'altro. E poi temo a prendere la macchina, perché come prendo la macchina non trovo più parcheggio e tocca posteggiarla lontano e tocca venire a piedi qua. È quello che mi rompe le scatole. Adesso domani la devo prendere per forza, perché devo andare al corso, devo andare e devo pigliare la macchina per forza. Solo il venerdì esco. Ma scusa un attimo, ma non ci sono i parcheggi del coso, del mercato, no? Quanto costa prendere tenerla lì? Non vedo proprio lo boccia a Fuglio. 60 euro al mese vogliono, se sei residente. Così tanto? Ehi, e infatti non so me. Ce le butto 60 euro e mi prendo quel parcheggio lì, perché non è possibile, qua non ne trovi mai parcheggio, è un macello. Ah, lo so, c'è un'amica mia che abita di lì, via della Badu, deve entrare dentro, tu non hai idea per entrare con la macchina cosa deve fare, e c'ha una piazzola all'interno, 250 euro, quando sono andato a trovarla un paio di volte, mamma mia, ogni affarrattuglio. E lì abita lì, penso di fronte a te, via della Badu, dove c'era quella pizzeria, come si chiamava, Graziella, o Vittoria, come si chiamava? Che mi lamenta, sai, comunque... Sta di fatto, io sono proprio in corso Trinità e non ce n'è mai parcheggio qua, è un macello. Se trovi il parcheggio qua è fatto il terno all'otto. O se no deve arrivare il parcheggio sotto alla Fontana del Rosello, fare un passaggio da lì, tanto è tutto vuoto di lì, avrebbero fatto i parcheggi, un dirigente avrebbe avuto meno problemi. E infatti, ma io faccio 100 metri cata, e mi devo sedere per forza, perché mi viene questo dolore, guarda, allucinante. Vabbè. Se non sono andato manco a sparare, andavo a sparare sempre al campo, manco lì sto andando più, figurati, sono in prigione. Cappa, già l'hai rientrato? Sì, stavo mandando i ringraziamenti per gli auguri, sono in tanti, e forse facevo meglio non mandarli a uno e mandarli dopo che finivano tutti, scrivere ringrazio tutti, eccetera, eccetera. Ma a me non mi piace, mi piace ringraziare a uno. Sì, lo so, un'altra volta, poi magari te ne dimentichi qualcuno, come si chiama, magari ci rimane male, tu magari non hai manco visto quel messaggio. Vabbè, ok, cosa volevo dire? Stavo guardando di Claudio Di Muro, se sta facendo una marea di collegamenti allucinanti, sono rimasto, adesso è riuscito a collegare la Città del Vaticano, che è uno dei country più difficili in assoluto. Io ci ho tentato, raramente qua c'è un radioamatore a Città del Vaticano, lui vabbè l'ha fatto in 27, non so come abbia fatto, non sapevo neanche ce ne fosse un CB, e c'è la QSL della Città del Vaticano, che è una cosa più rara, più unica che rara. E magari è salito un modo di frequenza e è riuscito a fare. Ma non è tanto questione di frequenza, Città del Vaticano è talmente piccola, antenna, chi ci può essere di CB radioamatore? Ce n'è uno che ogni tanto, una volta ogni volta di papà accende, che quando accende lui addirittura deve lavorare con gli spiriti su due frequenze perché lo bombardano da tutto il mondo. Io ci ho provato a parlare, ma sono stato un'ora, alla fine ho rinunciato, perché lui arrivava fortissimo, io arrivavo a lui altrettanto forte, perché Roma ce l'ho di fronte, arriva a bomba, tutti i radioamatori di Roma mi danno sempre rapporti altissimi, perché con quel dipolo che ho io arriva benissimo. Eppure, cavolo, non riusciva a parlare, uno sopra l'altro, da tutto il mondo chiamavano, e lui ci è riuscito in 27, ma ho visto proprio la QSL, infatti sono rimasto stupito come ha collegato la Namibia nel sud dell'Africa, è impossibile, boh, una cosa in 27. Ma perché stava a parte lì, come ricollegarsi, ci basta. Va bene, non è che sia così complicato, due o tre parole inglese già si sanno dire, e gli dici nominativo, lui c'ha un nominativo dalla 27 come ce l'ho io, da quel gruppo di Marsala, mi sembra, mi ricordo, c'ha il nominativo, vanno a 27 555 in banda laterale, e sono iscritti molta gente, adesso sta prendendo piede questo coso dei nominativi in 27, probabilmente si dice che quella banda lì la utilizzeranno, la vogliono rendere libera, nel senso come i 40 canali, dedicata ai DX. E ha fatto un sacco di bei collegamenti, ho visto anche, c'è un video su internet di questo francese, ha fatto proprio il video, cioè, sembra tipo la musica Warner Bros, l'hai visto? Quella roba lì, cioè, il video questo qua bello, tutto curato con tutti i particolari, e c'è la QSO che ha fatto con Claudio di Muro, veramente una cosa carina, l'ha fatto qualche anno fa, però è bello, però adesso sta andando alla grande, infatti gli faccio sempre i complimenti, perché 27 sta lavorando con un sacco di country molto molto difficili, ha fatto di San Luri, ha collegato San Luri in 27, infatti ho detto è impossibile, cioè deve aver trovato qualche canale, Olbia, ha parlato con Olbia, bassi, però ha fatto Porto San Paolo vicino a Olbia, infatti ho detto è impossibile. E l'altro giorno l'ho sentito in quella frequenza lì, l'ho sentito e non lo rispondevano, gas. Sono entrato io, se cos'è che ho detto, non ti sente. Ma si stava pensando forte, infatti, ma perché non ti prendi la patente, visto che sei così, alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, si aspetta proprio quando c'è meno confusione, magari per il fuso orario, e collega un sacco di posti, io no, massimo una volta solo ho fatto verso mezzanotte l'una, che stavo aspettando quel collegamento della stazione di Marconi commemorativa, e lui non c'era, quello c'era poca gente, l'ho fatto io, e mi devono mandare l'attestato di collegamento, perché era molto molto difficile, l'hanno fatto solo per un giorno, sembra a mezzanotte, una cosa del genere, e io sono riuscito, c'ho il video fatto, me la bella soddisfazione, però lui non ce l'ha, lui ha ascoltato la ISS, la stazione spaziale, è riuscito ad ascoltare, io vabbè, in orari quando passava non ero presente, perché non è così difficile. Avanti Gianni e poi Natalino. Gianni si è perso, Robè, e lui mi è uscito, chi sei? E allora gli ho detto, chi ero? A chiodo, arrugginito, ecco, anche lui è scritto lì, io ce l'ho da tanto il nominativo di quella della 27, quello Whisky Mike, così è? Sì, 101. Oh, non me ne parlo neanche, forse lì ho 105, sai quello qua, 105. Mi hanno mandato tre QSL con il mio nominativo, uno con il simbolo della Sardegna, la croce ai quattro muri, poi ce n'è uno la città di Sassari, e poi un altro che c'è i quattro muri con la Sardegna vicino, tre me ne hanno mandato. Meccappa, io ce l'ho da un sacco di tempo quel nominativo, perché prima già ero appassionato di DX, ma adesso canali non ne ho. Non possiamo ancora andarci perché ho questo qui e non lo voglio aprire perché ho omologato, capito? Lo voglio lasciare così. Sì, no, è bello, è interessante, e poi quando sento queste persone che si divertono, fanno passione, a me è sempre, non ho invidia, anzi ho piacere, perché qualcuno può essere invidioso di qualcosa, a me fa solo piacere quando sento le persone che hanno fatto delle cose un po' complicate, è uno di quelle persone dove stai andando tu, non so se lo conosci, un certo Mario, se c'è mai venuto di lì, la di Amatore, Natalia. Mario, penso di sì, un Mario lo conosco. Non ci viene dell'insezione, è di Senduria. Sì, vengono tutti, vengono. Adesso, no, questo che conosco io è di Porto Torres, però non è da dire, fa il corso con me. Magari è venuto e non so chi è. Anche Vittorio è iscritto lì da me. No, questo Mario, io ho tanta ammirazione perché a parte è una persona grande, non è un ragazzino, ha più di 70 anni, il padre era radioamatore dal 55 o 53, adesso me lo ricordo, l'altro fratello radioamatore, sono morto, non ti dico il cognome perché sicuramente lo conosci. Quando vai a casa sua, tu vedi ancora radio vecchie a valvole, il 101 della Iaesu, eccetera, c'è la radio della guerra, nel senso degli anni 60, eccetera, con dei pezzi di filo, lui se le costruisce lui le antenne, mi ha fatto vedere tutte le QSL di tutto il mondo, l'unico rilevatore che ho visto tutte le possessioni, ma non fatte solo in Funia, fatte anche CV doppia, e fatte sulla maggior parte delle bande, conosce a memoria tutti i country, tu dici tipo K3025, lui dice questa è la Corea, S41, e tutto il mondo, a memoria, mi ha fatto vedere tutte le QSL, ci sono 340 country nel mondo, a lui ne mancano due, però fatte in tutte le bande e in CV doppia soprattutto, perché lui è molto bravo in CV doppia, gliene mancano due, la Corea del Nord e quest'isola, non mi ricordo, Maruti, un nome così c'ha, che l'hanno fatto l'ultimo collegamento, l'hanno fatto 30 anni fa, una spedizione, un'isola sperduta nel Pacifico, per dirti, anche tu vedi con cosa lavora questo, tu rimani a bocca aperta senza avere mega antenne, con delle filari, pezzi di filo, se non è possibile, c'ha una posizione a senno, probabilmente il mare lo favorisce, non lo so, però ha fatto tutto il mondo, e io non li ho mai visti a nessuno fare tutte le QSL che ha fatto lui. Ma non stai dicendo Antonio, forse stai sbagliando, Antonio c'ha quelle radio vecchie a valvole che stavi dicendo, Antonio il vicepresidente stai dicendo. No, quello è Antonio M, che è un'altra persona, c'è Antonio S e Antonio M, quello anziano che conosco molto bene, fratello, li conosco tutti e due, questo si chiama Mario con la L il cognome. No, magari, non lo so, sarà venuto sicuramente. Antonio lo stesso c'ha questi residuati bellici a valvole, me l'ha detto lui, e poi lui va in telegrafia col tasto verticale ancora, che a me piace tanto, il tasto verticale. Tu pensa che Antonio Gixo lo conosce quando entra lui in telegrafia, dalla battuta. Che? Io conosco il padre di Romeo, che adesso lo sta più modulando, c'è un verbo a Piazza Colonna Mariana, le radio, c'è un verbo dei filamenti in argento addirittura. Tanto svegliato, è già stata la colpa. L'ho schiacciato male, ho detto che io ho visto le radio che addirittura avevano i filamenti in argento, ci avevano il ricevitore da una parte e il trasmettitore dall'altra, non erano ricetrasmittenti, erano proprio ricevitore e trasmettitore separati. Antonio, quello che hai nominato tu è bravissimo, tanto di cappello in telegrafia, però questo Mario che sto dicendo io, molto ma molto più veloce, addirittura lui si trova anche in difficoltà, perché istintivamente lui fa più di 120 battute al minuto e anche 140 arriva, dice io devo ridurre la velocità perché se no non mi seguono, è difficile per me farlo lentamente, perché tu devi andare intorno ai 60-70, oltre la maggior parte non riescono a seguirti, perché è difficile soprattutto quando fai collegamenti internazionali in lingua inglese eccetera eccetera, è un po' difficile, e lui dice mi trovo in difficoltà perché vado troppo veloce, anche Antonio molte volte parte troppo veloce, Antonio penso che faccia intorno ai 90, forse ai 100 ci arriva, ma questo va oltre i 120 battute al minuto, è un mostro, si costruisce i tasti lui, ne ho regalato anche uno io, però era un tasto dimostrativo di quelli per le scuole eccetera, lui l'ha tutto rifatto, ma tu devi vedere con le mollettine, con le cose, si fa tutto lui, e poi c'ha quelli verticali che sono rapidissimi, però tu lo vedi con cosa lavora, stava costruendo una loop magnetica, quelle circolari con le antenne, mi ha dato un progetto a me di una V, con le cornute eccetera, per i 6 metri, l'ho fatta anche io, adesso l'ho tolta perché ho messo un'altra antenna, ma lui sta sempre sperimentando e facendo, ti posso dire è un vecchio di radioamatore di vecchio stampo, per cui c'è solo da imparare da lui. Ok, Natalia a te. E riprendendo quelli QSO, cosa vuoi che ti dica? Anche io sperimentavo la Delta Loop per i 6 metri, l'avevo fatta, io ce l'ho in campagna, c'ho anche la multibanda, quella che ho fatto al povero Salvatore, gli avevo fatto la G5RV, però gliel'avevo fatta più piccola, gli mancavano gli 80 metri, perché lui posto non ne aveva, io invece in campagna ce l'ho completa, anche gli 80 metri avevo, In 80 metri il povero Salvatore ha dovuto fare la lista, per nominativo li chiamava, perché tutti volevano collegare la Sardegna in 80 metri. Arrivavano, cazzo, ti sto dicendo che è una cosa che non si crede in 80 metri. Saliva a campagna lui a farsi i collegamenti. Dopo c'aveva l'antenna in macchina e si rifaceva anche in macchina, si metteva col 140 in macchina a farsi i collegamenti. Cattolo era Salvatore mi. Quando saliva in campagna io mi mettevo al computer e lui faceva i collegamenti. Parlava benissimo l'inglese, era bravissimo Salvatore. E io Alberto, l'ho sentito anche io, facendo i collegamenti alla campagna di Natalino. Natalino, e quella scaletta te la ricordi che fa? Sì, la G5RV, quella multibanda, l'ho fatta io. La Delta Loop per i 6 metri non l'ho fatta lo stesso. E ce l'ho in campagna. Da poi cosa voglio? C'ho l'antenna bibanda in Chivisi, in Isottimolenzo, c'ho la Mantova 5, tutto in campagna. Lì già ne avevo posto, si pari un Darzan lì in di Poli. Quella scaletta ce l'ho anche io con progetto di Marco, era quella di Claudio, poi l'ho rifatta tutta a nuovo perché aveva scaldato, c'erano dei cavi, delle filari, e poi abbiamo fatto quello degli 80 metri su progetto, su indicazioni di Marco. Marco è molto molto bravo costruendo antenne con elementi diciamo di fortuna senza spendere grandi cifre, e ti posso dire mi ha dato delle soddisfazioni con le antenne da paura. In 80 metri faccio domattana un sacco di gente, ma anche radioamatori con antenne molto più performanti, abbiamo fatto delle prove e io arrivavo più forte con quella filare, probabilmente la posizione non lo so, però con quella filare. E più io adesso ho due antenne che ho montato, una verticale di questo ingegnere di Abbasanta che mi fa tutte le bande dagli 80 metri sino ai 50 MHz, mi sembra che arriva, adesso me lo ricordo. E poi mi ha dato questa col web, un'antenna mai vista, nel senso è tipo una cubica però montata in orizzontale, che quella c'ha 5 bande, lo stesso un'antenna da paura. E c'ha una resa, l'ha fatto lo stesso, lui ha preso la patente insieme a me, però ha fatto una marea di collegamenti con questa antenna a tutto il mondo e la sta vendendo anche ai paesi tipo Indonesia, posti del genere, da tutte le parti gliela stanno chiedendo. Che l'antenna, lui c'ha la stampante 3D, è un ingegnere elettronico e fa tutti i componenti e poi la spedisce, però c'ha una resa con l'antenna da paura, sembra uno stenditoio, uno stendino se la vedi, e l'ho montata quella. E poi c'ho sempre quella grossa, la cubica di Walter, che quella è un'antenna enorme per i 20 metri, però quella è con rotore e tutto, devo montare il traliccio per farla, però non ho tempo, adesso sto andando con quelli lì perché è troppo impegnativa montarla con l'antenna, pesa 30 kg solo l'antenna più tutto il resto, è una farratura, ci vuole gente per metterla su, a parte che per piazzarla ci vuole gente che la conosce, io ho solo gli schemi, però non è uno scherzo, è molto molto complicata, mi dovrò fare aiutare. Vai Gianni. Ok, ti stavo presentando di antenne, allora cosa hai detto? Guarda, ti stavo un po' del tempo di antenne. Guarda, adesso ti dico che antenne c'ho la Mantova, più c'ho una bimanda che mi aveva dato Claudio attaccata alla Mantova, poi una multibanda come per il ricevitore la uso, poi c'ho la X7000 che è la bimanda che fa il tribanda, che fa anche 1200 anche se non ce li ho, poi una verticale che fa sino agli 80 metri, poi c'era questa col web che fa dai 20 metri, mi sembra che fa 10 metri, adesso mi ricordo, comunque 20 metri, speciale 20, 10, 6 metri mi sembra che faccia qui. E più ho montato una direttiva che mi ha dato Walter per una 9 elementi per le VHF, quella lì è fissa, montata sulla diretta verso la cosa, verso su, verso la Liguria, per il ponte principale che abbiamo in Italia, per fare la diretta, quella ambulante. E poi devo metterne un'altra per le UHF direttiva, lo stesso, così la metto verso quelle zone lì. E queste sono tutte le antenne mie. E più c'ho le filari, la tre bande che fa il 40-20, è un'altra banda, adesso mi ricordo se fa i 15 metri, e più c'ho quello del dipolo degli 80 metri. Ma la direttiva la rotazione rotolo. No, questa l'ho messa, anche se potrei mettere il rotolo, la lascio fissa, tanto mi interessa solo quella posizione lì, è orientata a nord verso il ponte che c'è in media, che poi prende anche il ponte che c'è sulle Alpi Marittime, che sono i punti principali, con quello copre mezza Italia, quel ponte è a 2400 metri di altezza, c'è una copertura da paura. Molte volte lo faccio in diretta, quando ci sono le condizioni, però è di farle con tutta l'Italia in VHF, è veramente una buona posizione. E poi metto questa più piccola, mi pare sia una 8 o 9,20, lo stesso per le UHF, anche se in UHF non ci vado quasi mai. La volevo mettere verso l'Imbara, ma sinceramente per fare tre collegamenti che non c'è nessuno, è meglio la metto su per i conti. E con cui mi sto divertendo è con i di pubblico, le filari, ho fatto tutto il mondo, micidiale, hanno una resa, un pezzo di filo, un'antenna elementare, eppure ti diverti con quella. Vai Natale. Sì, già ne ha fatto uno o due di dipuri, a me piacciono lo stesso, io li ho sempre fatti, anche agli amici li facevo. Ne ho fatto una volta uno a Fraco, che era bestiale quel dipolo. Adesso qua non c'ho posto, non c'ho niente, cosa vuoi fare? Non vi lupo, se no già mi avrebbe affatto un paio d'antenne. Io qua a Piazza Neva ho fatto Mario Monti, quindi no, non ne posso piazzare altro. Ma con una filare, se ti piace ascoltare, ti metti un bel pezzo di filo, la lunghezza, aspetta, per i 20 metri sono circa 10, perché a mezz'onda un braccio sono 5 più 5 più o meno, dai, le misure sono quelle, te saranno molto orientative, ma c'è una bella resa, lo sai come migliora l'ascolto? Tanto è unidirezionale, te lo metti tirato bene da vedere, te l'attacchi dalla mantova con un pezzo di filo in modo che non faccia contatto diretto a un altro paletto, non ce l'avrà un altro paletto vicino, alzi un paio di metri da terra, se riesci a alzarla almeno 3 o 4 metri e c'è un rendimento eccezionale, soprattutto in ricezione, cioè rispetto a una qualunque antenna verticale. Lo so, però l'estetica, lì abita gente che rompe le palle, anzi adesso molti se ne sono andati di quelli più balle, ma prima non mi voleva far mettere manco la mantova, niente. Tanto un pezzo di filo sottile sottile, un filo tipo un filo di mazza giallo verde, non devi fare cavi grossi, è un filo sottile sottile, lo tiri, gli metti una lenza per un cavo di quelli, una cima nautica leggerina, un cordino, in modo che non faccia direttamente contatto sul metallo, dove attacchi al palo e vai alla grande, gli metti quegli isolatori, io li ho fatti con il coso, addirittura gli isolatori, anche se ce l'avevo usato quelli dei, come si chiama, i taglieri, quelli che sono tipo plexiglass, sono con la plastica dura, li ho fatti così, li ho messo i furi, passano i cavi, vabbè, di lì sono cavi abbastanza grossi, perché poi ci sono le calate, devi alimentare al relè di commutazione, perché c'è un relè sopra che ci può attaccare 5 antenne con un unico cavo, e io commuto anche le antenne per dire, sto andando in 20 metri, metto in orizzontale il dipolo, poi provo a girare la cosa, la verticale, vedo, faccio i confronti dove si sente meglio, molte volte se c'è un po' di disturbo, magari col segnale un po' più basso ascolto, e poi la potenza glielo do con quell'altro dove c'è una resa migliore, e faccio la commutazione così, ed è anche piano piano quando ci prendi la mano, va bene, vai di nuovo Gianni. Vabbè, andare, ma io vi saluto là che devo andare a fare la pappa al cane, così quando lo riporta su è già pronta. Ci sentiamo ragazzi, grazie per il questo, io sto chiudendo, dai, caso è forza maggiore. Ciao a tutti, grazie per il questo e saluto anche gli ascoltatori. Ciao Gianni, buona carica e buon tutto, anche io rimango ancora un po', poi vado anche io a mangiare la pappa. Vai Natale. Ciao Gianni, ciao, grazie per il QSO e le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime allora. Buon proseguo. Avanti Rob. Abbiamo fatto un QSO molto prolungato, passaggi lunghi, vediamo se c'è qualcuno che ha piacere di partecipare. Avanti sul canale 10 che vuole entrare. Che avanti, qualcuno vuol fare il timido, perché il segnale era forte, se ci si entra volentieri. Qua arrivava quasi 9 più 20, avanti. Ho la sentita la portante, Natalia. Ma molti mettono la portante così e poi non entrano, si mettono a fischiare. Io quando sento così manco gli rispondo, figurati. Perché lo dico una volta e boh. Poi se non vogliono entrare non entrano, peggio per loro. Non parlare, manda portante, Natalia. Ah, c'è qualche ventola vicino. E ci sarà quella dell'alimentatore. Ma che alimentatore sta utilizzando? Un alimentatore da 30 ampere switching. E perché adesso si sente la ventola? Prima non la sentivo, forse magari non era parte, ma è sempre fissa la ventola o parte quando raggiunge la temperatura? Ma dirti la... no, è fissa, è fissa. Sarà un po' sporco l'alimentatore, bisognerebbe pulirlo. Quando ne voglia lo faccio. Ne ho due intanto. Ma tu la tagli, o sbaglio, dimmi se sto sbagliando, ne avevi uno grosso ZG 40 ampere, o sbaglio? E quello ce l'ha, chiedo arrugginito se non se l'ha venduto, era anche modificato, quello gli dava veramente 40 ampere, perché sennò il mio K si sedeva se non gli davi quegli ampere lì. Sì, sì, ce l'ha ancora lui, quello è un buon alimentatore di vecchia concezione, dai, io quelli switching neanche se me li regali, io ho tutti e due. Infatti uno è, c'ho questo qua più piccolo, questo è un 30 ampere continui che è sempre spento, quello lo uso per altre cose, quando mi puoi seguire, io ce l'ho quello dell'accetto da 60 ampere, ma quello pesa 20 kg, quello teoricamente può dare 120 ampere perché è stato sovradimensionato, i componenti che ci arrivano a 120 ampere teorici, però lo fanno lavorare a 60 ampere, non ha né vento né niente, pensa che è una cosa esagerata, addirittura c'è il trasformatore maggiorato, gli hanno messo, per cui ne dà pure di più di 60, anche se questo è calibrato a 60 ampere, è una bestia, non ha mai avuto problemi di niente. È quello che c'è Claudio, l'avevo modificato io perché diceva 40 ampere ma non li dava, capito, e allora l'ho dovuto aprire, l'ho modificato, adesso sì che li dà. No, ma questo c'ho tutti gli apparati collegati, allora c'ho collegato con la radio il TS2000, il 440, l'FT3000 e poi cosa c'ho collegato? A 12 volt cosa c'ho? Ah, c'ho le altre radio, gli altri baracchini, un paio di baracchini, l'Aran 48 c'è collegato e basta, mi sembra. Ah, e lo strumento, il multimetro digitale è collegato lì. E io non so dove buscarmelo uno, me l'avrei buscato uno di quelli tipo quello che ho dato a Claudio, lì vecchia concezione, da. Proprio perché questi switching non mi sfagiolano. I switching sono un po' delicati, basta anche un temporale, non proprio sopra la testa, queste microscariche elettrostatiche in atmosfera, tunk, partono, tipo le schede degli apricancelli, anche se il temporale è lontano, sono dei campi elettrostatici, dai, nell'aria, e sono molto soggetti. Per dire, si rompe, magari si spegne, non è come quelli a trasformatore, il difetto di quelli a trasformatore resistono molto bene ai sovraccarichi, per dire, al limite bronza un po', ti scalda, però se ti parte il diodo ti arrivano per dire 20 volt, l'unico problema è quello lì, per dire il regolatore, se ti parte quello puoi fare danno sulle radio, mentre quelli switching sono delicati per quel fatto lì, poi sono degli critici per i problemi di radiofrequenza, rientri eccetera eccetera, però se parte l'alimentatore si spegne e non ti arrivano sovrattensioni, quelli a trasformatore purtroppo se ti parte il coso, il regolatore di tensione, e lì ti possono arrivare tensioni molto molto alte e bruci l'apparato, l'unico limite è quello, ma senza mai sovraccaricarlo non dovrebbe succedere niente. Quello che ho io dell'accetto, ti ripeto, ce l'ho tanti anni, ho trovato un'occasione su internet, peserà 20 kg, una bestia, ha dei dissipatori enormi dietro, non scalda, non lo puoi tenere attaccato, io molte volte me lo lasciavo acceso senza accorgermene, me ne andavo domani mattina, figurati, molte volte io lo spengo e c'è il LED, rimane almeno un paio di minuti, tre minuti acceso, talmente sono grossi i condensatori di filtraggio. Vai Natalia. Infatti, quelli lì sono alimentatori, se no quello che c'ha Claudio, quello lì pesa un casotto all'alimentatore stesso. E avevo venduto tutto a lui, avevo venduto il 440, a Gianni gli avevo venduto, la colonnina, tutto gli avevo dato. E l'alimentatore. E loro c'hanno l'8,50, ci hanno preso, che ce l'ha usato l'altro giorno, bella radio, suona molto bene, anche se Mario non è che lo conosce bene, molte cose le ho dovute spiegare io, e poi c'hanno 9,50, ancora meglio, una grandissima radio, e poi c'hanno una sfoglia di baracchini, comunque tutti i collegamenti li fa con quello là, con l'8,50, una grande radio. Mi è sempre piaciuta quella, quella lì mi è sempre piaciuta, la radio. Ma è bello anche l'effetti 4,50. Sì, sì, anche il 450 è carino. L'unico limite di queste radio, io a me ce li ho perché ce li ho, però io sono innamorato del 940, c'ho anche l'effetti 3000, bellissima, radio spettacolare col display, c'ha tutte le cose possibili e immaginabili, filtri, doppio amplificatore, triplo preamplificatore antenna, una sensibilità da paura, però il più bello di tutti, quello che a me piace più di tutto, è il 940. C'ha una modulazione, una ricezione da paura, considerando che è una radio che ha 40 anni. Vabbè, 40 no, 30 anni dai. E 950 addirittura l'evoluzione è quella, anche se c'ha il display digitale, però sono radio con l'alimentatore dentro contenuto, da paura, belle pesanti, grosse, per spostare peso a 22 kg, 940, e 950 peserà un pochettino di meno, però come dimensioni saranno lì, ma c'ha una ricezione 940 a TS2000, se tu non metti il DSP, filtri, thread, eccetera, non si avvicina neanche il TS2000 come ricezione. Poi non parliamo del modulatore, quando io attacco quello lì la gente dice che radio stai utilizzando, c'è una radio da paura. TS2000 invece è più equalizzata, una radio tipo quando ascolti una cosa, un impianto stereo di un pregio, e lo confronti a una radio di macchina, un radione, un'altra modulazione. Vai, Natalia. Il 940 ce l'aveva, l'ho conosciuto che ce l'aveva il povero Lai, non so se te lo ricordi, come CB usciva alla verde, quello lì c'aveva 9,40, è un bestione di radio, bella, veramente bella. Ma poi è silenzioso, non è il fruscio, per dire, non è fastidioso. Il TS2000, grande radio per le V e le U, non gli puoi dire niente, eccellente per tutte le funzioni che c'ha, anni avanti quando è uscito agli altri radio, per dire, se devi fare satelliti, devi fare commutare seguire le due frequenze, eccetera, va benissimo perché c'è il doppio ricevitore, il doppio trasmettitore, niente da dire, però è fastidioso, quando tu devi ascoltare i segnali deboli, ti senti questo fruscio fastidioso sotto, mentre 9,40 ci puoi stare ore e ore attaccato, non ti infastidisce. Infatti le radio moderne, per quello secondo me è il difetto, con tutti questi sistemi digitali di DSP, di coso, di preamplificatori con filtri particolari, ti sporcano anche la modulazione, te la ascolti, tu riesci a capire quello che dice, però è un po' fastidio quando stai ore e ore attaccata alla radio, alla fine è stancante, è come quando ascolti una voce citofonica rispetto a quella voce bella, pulita, chiara di un telefono, così il discorso. Lasciamo un secondino in bianco, forse c'era qualcuno che voleva entrare. Avanti su 10, avanti chi ha chiamato, forse propagazione, vai Natalia. Ma io non ho sentito nessuno, anda bene Mela, e cosa vuoi fare? Sono delle radioline confronto a 9,40 quelle lì, perché non c'è confronto, e se no ai valvolari, cavolo, quella modulazione di ricezione del valvolare mi è sempre piaciuta a me, non c'è nulla da fare, è un'altra cosa. Allora io ho un ricevitore trio, marcato trio, che è la stessa cosa di Kenwood, valvolare, nuovo, me l'ha portato Giovanni Bracco, radioamatore, dai. Bello, in officina, guarda se riesce a me, mi ha fatto, no, ma chi se lo prende, chi se lo... L'ho acceso a casa, alla fine questo me lo compro io, me l'ha dato a un prezzo da amico ridicolo e me lo tengo. Ti posso dire, tu devi sentire, non dico che ci avrà la sensibilità di un 9,40, ma tu quando ascolti le intercettazioni quando iniziare, perché c'è anche l'accordatore d'antenna, c'è il preamplificatore, tu devi vedere quando ricevi, sembra che stai ascoltando la voce a fianco a te, la persona calda, bella, corposa, col suo altoparlante incorporato senza mettere l'altoparlante esterno, perché molte di queste radio tipo il 440, se tu non metti un altoparlante esterno c'è un altoparlantino ridicolo, non si comprende nulla, quando c'è uno magari un po' di fruscio è tutto disturbato, ma con quello lì c'hai un suono. Io ho fatto la prova ad ascoltare anche in 27, ma la modulazione è bella, chiara, presente, bella, per cui è una bella radio. E poi c'ho l'FT, come no, poi si chiama il 101 digital, che quello me l'ha dato Claudio, abbiamo fatto degli scambi, quello stesso è una radio semivalvolare, forse è ibrido, forse c'è un paio di valvole dentro, quello lo stesso è una radio che c'ha un bel ricevitore. Di nuovo a te Natalia. Infatti la ricezione è bella, sono le valvole quelle, è tutta una sagosa, capito? Questa è la radio di adesso, manco a confronto le metto, solo che quelli con le valvole devi trattarli bene, se no ti durani, da Bacca Sant'Ichivano diciamo noi, quelle vogliono trattate bene. E allora sai quante ne ha quell'Antonio lì che stavo dicendo di quelle radio lì? Ma non sono le sue quelle che c'ha. C'ha qualcosa, però lui è il responsabile del museo della radio insieme all'altro Antonio. Sono lui Antonio e un altro Haiti del museo di Faenda, dell'Otario Faenda, e ci sono qualche centinaio di radio, più ci sono anche qualche trasmettitore, tipo c'è uno Iesu 101, mi sembra effetti 101, adesso due o tre radio ci sono, radio navali, cioè, e più ci sono le radio come ricevitori, parliamo le radio vecchie che si ascoltavano in casa, quelle tipo, ma ti posso dire, ma voce del padrone, a Lucio Bacchini, ne hanno discrete, e c'è una piccola storia della radio dalle più vecchie a Galena fino ad arrivare agli anni 70, le prime radioline, quelle a transistor, e ci sono dei bei prodotti. E Antonio è un grande appassionato, lui molto, fa sempre l'attivazione, adesso mi ho fatto con lui, quando sono salito su ho fatto da attivatore, e avevamo fatto il San Maurizio, l'award di San Maurizio, sono salito io e oltre che partecipato come cacciatore ho fatto l'attivatore per una sera, sono stato un paio d'ore lì da su da lui, ci siamo divertiti, dai. È molto appassionato, poi rapidissimo lui scrivendo, appena sente il nominativo tu memorizzato, io invece me lo faccio ripetere molte volte, lui ha molto, come si chiama, capacità di ascoltare, dai, tira veloce scrivendo, una macchinetta, perché lui è abituato a lavorare in CV doppio, per quello è molto avvantaggiato. Poi sta facendo anche i satelliti, è abbastanza esperto anche nei satelliti, e non è facile trovare gente che faccia anche i satelliti, perché uno se si specializza, lui fa CV doppio ed è bravo, Funia ed è bravo, e satelliti dice la sua lo stesso. Antonio, parliamo di GXO, sto parlando di lui. Di nuovo a te Natalia. Mi ha fatto vedere un illuminatore che ha fatto lui per le parabole. E infatti è bravo, sì. Però lui in telegrafia usa il tasto elettronico, non usa il verticale. No, quando c'ero io era contatto verticale, a quello che cioga. Oh no, già la sa usare la telegrafia, non è di quelli che lo fa col computer. Sì, lo so che la sa usare. Solo che col tasto elettronico ti viene meglio, perché uno fa le linee e l'altro i punti, capito? Invece col verticale devi va tutto due. È diverso per quello, io ce l'ho il tasto, l'ho buscato, un tasto militare, sarà di produzione russa sicuramente. Io ho messo una tavoletta sotto, io ho fatto lo scillofono, e è bellino quel tasto, tipo Junker rimane, che c'ha il coperchio che si copre. Guarda, adesso tutti si stanno appassionando col discorso del programmino, col computer, scrivi e te lo dà direttamente alle battute, e qualcuno lo fa, lo sta facendo, io ancora non ci ho provato, quando ci avrò tempo vedo anche un po' la telegrafia, almeno per fare qualche collegamento le cose elementari, dai. Però non è, diciamo, non c'è gusto farlo col computer, secondo me. No, usa computer, tasto bighere. Sì, assolutamente, i veri radioamatori hanno iniziato con il CW, mica hanno iniziato la fonia, Marconi hanno iniziato con il contatto telegrafico, eccetera, eccetera, poi e tutti poi iniziato la radio, la fonia, e piano piano si sono appassionati la novità, però sino a qualche anno fa i radioamatori, quelli di un certo pregio, c'è qualcuno che lo utilizza ancora, solo quello, io ho amici radioamatori che utilizzano solo il CW in fonia, io non li ho mai sentiti. Infatti. C'era Raffaele, uno che conoscevo io, che lui andava solo in telegrafia. Raffaele Lumbau, non so se è vivo, non l'ho più visto. È il fratello di dottor Lumbau, anche lui è radioamatore ed è iscritto da noi. Allora, quel cognome che hai detto tu, io mi riferivo a Mario. E il fratello di Raffaele, sì, ho capito. Ah, questo qua è il canale dei Cocomani, ho chiamato canale apposito, poi ci sono i Cocomani, tipo Natalino, conoscete? Il Cocomane. E beh Luca, veramente a buon'anima di Salvatore, quando facevate i tussici tutti e due. E allora, una volta me ne è venuto, quando stavo lavorando al comune, robe, me ne è venuto lì con la motocicletta, io ero lì e c'erano i giardinieri tagliando l'erba e tutto. E mi è uscito secco secco. Frate, ma non ne hai di erba? Viene un campo in chi vira giù di su. Cazzo che studio, ce la fumiamo tutta. I giardinieri sono caduti in terra dalle risate. Sembrava un tossico proprio. No, a me mi facevano morire Luca quando faceva Simone Cagliaritano e lui il coso. Ma non ne hai monettine, tipo, come diceva lui, nomina a me. Luca. Non è quelle che sanno con le monettine, quelle che non so la forma che forma c'avevano. Boh. Poi Luca faceva il Cagliaritano, Simone, tutto così, e Guido era un piscio quel periodo lì. Sì, quel Salvatore è una scena, la buon'anima. Chiaro, sono dispiaciuto, io l'ho conosciuto da piccolino, siamo nati insieme al stretto, il padrino, mio padrino e mia madrina erano il padre e la madre di lui, poi tutta la famiglia, eccetera, eccetera, amici di mio padre da bambini loro, si sono poi, e hanno battezzato loro, vabbè purtroppo la vita va così, cosa possiamo farci? Ok Luca, riprendi tu. Aspetta un attimo, sto mandando dei messaggi, un attimo. Io ancora 2 minuti di Natalia e poi vado a mangiare, dai, riprendi tu. Io mi ho preso quell'antenna della Proxel, quella da mettere in macchina, no? Quella Pro-X1 si chiama, ed è una multibanda quella lì. Sai se funziona bene qualcosa, se hai sentito qualcosa di quell'antenna? Perché mi ricordo Salvatore aveva quegli stili della Echo, ma vai e trovali. Ma tu cos'è, la bimanda VU stai dicendo? No, HF, multibanda. Ce n'è una grossa a volte, ma c'ha un mollone gigante, dove te la metti con l'antenna? Su una base magnetica, c'ha lo stesso attacco a avvitatura dell'antenna bibanda, la metterò su una base magnetica, come faceva Salvatore lo stesso, lui però aveva gli stili della Echo, c'aveva. E questa c'ha un ponticello, praticamente tu vai a collegarti all'induttanza dell'antenna, no? E cambi frequenza. Ce li ha Walter lì figli, però non mi ricordo che antenna era, se era, non ti posso dire niente, c'ha un mollone enorme, ma lui c'ha 500 watt in macchina, era una bestia di capo, però bisogna essere dalle stazioni, lui cambiava lì figli a seconda delle bande, è micidiale, però mettere le HF in macchina non è semplice, Natalia, vabbè tu le usi in ricezione. No, io le dovevo usare in trasmissione, se riesco a prendermi questo pezzo di carta, speriamo che questa sia la volta buona. A Bologna gli esami sono il 2 di novembre, il 2 o il 7 di novembre e sono in presenza. No, da noi sono online. Adesso hanno fatto slittare, torna alla data. Quindi era dal 14 al 18 di novembre e adesso non si sa. Diranno loro perché saranno incasinati lì a Cagliari. Un'altra cosa ti volevo dire, Il nomino attivo va richiesto a Cagliari oppure a Roma? No, allora il nominativo teoricamente dovrebbe rilasciare Cagliari, però non erano attrezzati, per cui l'hanno rilasciato da Roma. Io quando l'ho preso io l'hanno fatto a Roma, anche se devo dire nella legge c'era scritto che lo lasciavano, dovevano rilasciare gli ispettorati territoriali, perché sono connessi adesso alla rete centrale di Roma, al Ministero di Roma, delle telecomunicazioni, però mi ha detto non siamo ancora abilitati, nel senso attrezzati, abilitati sì, però non erano attrezzati per fare questo lavoro qua. Probabilmente l'hanno già fatto questa operazione, perché sarebbe anche più comodo, perché il nominativo me l'hanno dato un po' in ritardo, il nominativo, mi sbaglio, me l'hanno dato subito, immediatamente, l'autorizzazione generale hanno tardato per darlo. Vabbè, quella sì, ma cosa, ma tanto si fa online il nominativo, gli mandi la fotocopia della patente, capito? La marca da bollo, tutto in marca da bollo col fatto, ti mandano il nominativo se stesso online. Sì, no, adesso col discorso online la fanno abbastanza. Il nominativo l'hanno mandato il giorno dopo, dice, quella lì mi hanno detto, se l'avessi mandato la mattina me l'avrebbero dato la sera, ne avevano tanti. Non vorrei dirti una fesseria, qualche migliaio ne hanno fatto nell'anno 2021 di corso, di distribuzione di giornali di amatori. Noi scatta, da quanti eravamo siamo rimasti solo in sei. Ecco. Okay, avanti. Ciao a tutti, Marco, ciao Roberto, Natalino, non so chi altro ci sia, qua era acceso. E Natalino ha nominato quell'antenna, volevo sapere se l'aveva testata almeno in casa per vedere se funzionava correttamente. No Marco, non l'ho testata perché no, purtroppo non posso attaccarla da nessuna parte, perché non, le staffe le avevo tutte buttate via e certe le ho usate per attaccare le altre antenne, quindi non ho modo di poterla testare. Capito? Mi manca la base magnetica, siccome quella che ho io in macchina c'è l'attacco per quella della 27 e non va bene, dovrei farne un'altra con l'attacco a PL, come, perché c'è l'attacco a PL, tu ce l'hai, lo so, io non l'ho testata per quello. Ok, no, per vedere se riuscivi a prendere meglio in casa rispetto che ne so, a quelli di Polo, quei fili che avevi messo. Va bene, continuate, io sto facendo roba in cucina e non riprendo, dai, che tanto mi accendo la TV direttamente. Vai Roberto. Sai che saluto a Marco, veloce, adesso per chiudere. Ciao Marco, ben risentito dopo tanto, io sono stato anche io un po' che non entravo. Vai Luca. Sì, ciao Marco, già mi senti, sì. Sì, a voglia. 9:25 Luca. Ciao, ben sentito. E io è alcuni giorni che ho attaccato questo, che era fermo da almeno 2-3 mesi forse, non lo so, fermo. Se tutti gli altri non ne parliamo. Funziona tutto, sì. Già sta funzionando tutto. Quando ti arriva Luca, te Marco? Conta che qua il 9:30 sarebbe il fondo scala, vai Luca. No, aspetta, calmi. Per questa baracchina 9:30, corretto. Non ho guardato meglio. Infatti mi sembra avanzato, Luca sta arrivando, a portante muta 9:35, parlando 9:40. Ma questo più di quello non va. C'è Luca, può essere Carlo, può essere tu, più di 9:30 non segna, se va anche letto correttamente con casino, si smettere. Va bene. Volevo dire, mi ricordo Roberto si lamentava che c'era un quadremo elettrico, allora qui da quando non ho messo il punteggio, forse fa risonanza, cacchio ne so, c'è un rumoraccio elettrico che non ti dico, Roberto. e magari fanno la cosa d'antenna, la schermo, quella roba lì. C'era qualcuno, stava mettendo portante, chi è avanti che vuole entrare? È bello a forte perché lo sentivo sotto di te. Però signori, vi devo lasciare perché adesso vado a mangiare. Saluto prima di tutto a Natalino, che è il primo che ho parlato, poi Luca e poi Marco, eventuali amici qua SWL. Io chiudo, cuoretti da parte mia, buon tutto, buon proseguimento, ci sentiamo spero presto. Ciao ciao a tutti. Ciao Roberto, ben sentito, dai, buonasera. Grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, dai. Avanti Marco. Ciao Roberto, buon cuoretti. Io seguo Rotta, ciao Luca, Natalino, tutti quelli che hanno sul canale, non ho fatto ascolto, era sceso ma non stavo seguendo. Riprendi Luca, buonanotte, ciao. Cuoretti. Sì, allora, va bene, anch'io me le passo in Cuoretti perché, come si dice, devo fare dei messaggi, mi ruba tempo. Dai. Ciao Natalino, ciao Marco, ciao. Ciao Roberto, alla prossima, ciao, buonanotte. Va bene, riprendo io allora per il QSO. Anch'io me ne passo in QRT salutando Marco e Luca, dai. Ci sentiamo alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere, buon proseguimento a tutte e due. Salutando anche gli SWL all'ascolto. Alfa 1 QRT.